Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Allora, gli italiani tirano la cinghia, lo avevamo detto, lo sappiamo, l'Istat ieri ha certificato la situazione di difficoltà in cui vivono molte famiglie. Oggi su tutti i giornali viene enfatizzata in maniera abbastanza forte l'indagine dell'Istituto di Statistica sulla spesa per consumi nel nostro paese relativa al 2009. Chissà come è ulteriormente cambiata la situazione all'inizio di quest'anno, in questi primi sei mesi del 2010. Un'indagine che dipinge in maniera abbastanza preoccupante la situazione che vivono molti nuclei familiari, una famiglia su tre costretta a tagliare anche a tavola, dice il Messaggero, la Stampa, una famiglia su tre tira la cinghia, il Sole 24 Ore, stretta delle famiglie sui consumi. Il primo dato, la spesa media mensile per famiglia nel 2009 è stata pari a 2.442 euro, peraltro può sembrare una cifra molto alta, ma ci sono dentro le spese anche per la casa e quindi tutte le spese che devono essere sostenute per mandare avanti la propria abitazione, ma in ogni caso è una cifra che risulta in contrazione rispetto all'anno prima dell'1,7%. Complessivamente i consumi delle famiglie scendono per la prima volta in 10 anni. E analizzando ancora meglio il dato si scopre che le famiglie sono in affanno al supermercato, e questo è davvero il tema che ci ha spinti a tornare ad affrontare la situazione, perché onestamente quando leggo che a tirare la cinghia sono gli anziani soli, ritengo che sia davvero una cosa inaccettabile. E allora oggi più che mai vorrei sentire le vostre testimonianze, perché vorrei tornare a sentire come state componendo adesso il vostro carrello della spesa, se ci sono stati soprattutto cambiamenti economici nel vostro nucleo familiare, come avete riorientato, riorganizzato le vostre abitudini di spesa al supermercato, e se lo avete fatto per colpa dei prezzi o per colpa del reddito, perché tutto sommato sul versante prezzi grossi scossoni nell'ultimo anno, anzi tutt'altro, non ci sono stati. E allora 800 24 00 24 per sentire le vostre esperienze, 349-238-6666 se ce le volete raccontare con la modalità SMS. Stamattina torneremo ad analizzare la situazione con Stefano Crippa, responsabile area relazioni esterne di Feder Distribuzione, quindi area supermercati, centri commerciali. Crippa, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a tutti, grazie era dell'invito. Molto frequentemente da noi un paio d'anni fa, quando davvero il carrello della spesa era insostenibile, il 2008 nel pieno della crisi, l'inflazione che volava era oltre il 4% per colpa del petrolio, ma per tanti altri fattori. Adesso da quel punto di vista lì la situazione appare molto più sotto controllo, eppure ancora una volta colpa vostra che al supermercato rendete la vita difficile a tutti. Poi torneremo su questi aspetti che hanno peraltro ben poco di folcloristico, ma anche qualche aspetto piuttosto triste. Marco Bulfon, coordinatore inchieste per Altro Consumo, bentornato anche a lei, buongiorno. Buongiorno. E ci collegheremo a partire dalle 12.30 con Lorenzo Bazzana, responsabile economico anche di Coldiretti, per sentire un po' il versante dell'ortofrutta, che comunque compone gran parte anche delle tavole degli italiani. E qua sul tema prezzi, insomma, abbiamo sempre da discutere. C'è questa discussione, chiamiamola così, che va avanti da anni con Feder Distribuzione. Io tra l'altro non vorrei tornare su questa polemica, stamattina vorrei proprio orientare la trasmissione su un taglio estremamente pratico e capire quali possono essere le ricette di tutti per aiutare la famiglia italiana a mettere sulla propria tavola prodotti di qualità, ovviamente salvaguardando le esigenze del portafoglio. Prima di sentire la nostra scheda, rapidissimamente la borsa. Oggi si brinda in Europa, per la verità le ragioni non le capisco neanche, ieri seduta negativa, oggi si riprendono invece gli acquisti molto sostenuti. Parigi guadagna il 3%, Francoforte più 2, Londra più 2, Milano più 3. Probabilmente oggi gli investitori stanno tornando prepotentemente sui titoli che hanno perso molto e quindi si va a caccia di buone occasioni anche sul mercato azionario. Tempi di saldi evidentemente anche qua. Fondiaria più 5,50, Popolare di Milano più 5, più 5 per Exor, più 5 per Italcementi, Buzzi Unicem più 4,69, Geox più 4,50. Non c'è nessun titolo negativo a Milano e addirittura quelli che guadagnano meno guadagnano più di un punto: Atlantia, Terna, Finmeccanica che guadagna 2 punti per la verità, Unipol più 1,94, Snam più 2, Ansaldo più 2. Euro su dollaro a 1,2573. Lasciamo la borsa, lasciamo il mercato azionario, andiamo invece adesso alla borsa della spesa. La crisi è solo un ricordo? A vedere le statistiche non sembrerebbe proprio. Gli italiani infatti sono sempre più costretti a risparmiare anche sul cibo. A lanciare l'allarme è l'Istat, che ha diffuso i dati sui consumi relativi al 2009. La spesa media mensile per le famiglie lo scorso anno è stata pari a 2.442 euro, l'1,7% in meno rispetto all'anno precedente. Il capitolo alimentari non è da meno. La spesa media mensile per gli alimenti si è ridotta del 3% rispetto al 2008, attestandosi a 461 euro al mese. Ma se l'anno scorso di questi tempi fiorivano ovunque iniziative per alleggerire il carrello della spesa, ora che gli effetti della crisi si sentono proprio sul portafogli, queste ultime sembrano essersi congelate. Come orientarsi, dunque, nella scelta? Al momento la parola d'ordine sembra essere rinunciare. Se il 63% di famiglie italiane ha dichiarato di aver diminuito nel 2009 solo la quantità di cibo acquistata, il restante 15% ha affermato di aver addirittura ridotto anche la qualità. Un dato, quest'ultimo, che non corrisponde a quanto rilevato dalla Coldiretti, secondo la quale quasi 9 italiani su 10, l'87%, non hanno rinunciato alla qualità della spesa alimentare, nonostante le difficoltà economiche. Qualità o non qualità, è chiaro che tutti teniamo a mettere prodotti di qualità sulla nostra tavola. Il tema è con quale budget andiamo a fare la spesa e che cosa possiamo permetterci di comprare. Volevo solamente rivolgere un piccolo richiamino ad un ascoltatore che ci ha chiamato. Stefano, macellaio nella grande distribuzione, vorrebbe raccontarci i comportamenti della gente mentre fa la spesa, naturalmente. È un punto d'osservazione che ci interesserebbe molto sentire, Stefano, ma non riescono a ricontattarla al telefono, quindi si metta alla cornetta perché vorremmo veramente sentire anche la sua testimonianza. Intanto Stefano Crippa, Feder Distribuzione, io mi sono ripresa le schede del programma di Salvadanaio che scrivevamo nel 2008, il periodo che le ho ricordato prima, quando davvero oltre alla grande distribuzione su tutti i versanti c'erano tante iniziative per poter aiutare le famiglie a fare con leggerezza la spesa, perché in quel momento davvero sembrava che fosse diventato impossibile scavalcare la porta del supermercato. Ma non solo, voi ne avevate fatte tante, ma ho ritrovato anche tante iniziative delle amministrazioni comunali che in qualche maniera sostenevano appunto i cittadini con ogni modo. Ho trovato questa iniziativa per esempio di questa Hard Discount Lidl, che addirittura organizzò un minuto di spesa gratis, che non so neanche se sia andata avanti, ma insomma questa è una, ma ce ne furono tante. Nel 2009 e nel 2010 non avete organizzato più niente, Crippa? No, la grande distribuzione è andata avanti nelle sue iniziative perché purtroppo quelle a cui lei faceva riferimento erano quelle organizzate nel momento in cui si avevano i primi sentori che la crisi stava cominciando. In realtà poi abbiamo verificato che la crisi purtroppo è proseguita. I dati del 2009 devo dire che non ci sorprendono affatto, perché dall'osservatorio che noi abbiamo sui punti vendita, sulla gente, avevamo perfettamente capito che c'era una situazione di grande difficoltà e quindi devo dire che quello che in quell'epoca avevamo avviato abbiamo proseguito anzi con maggiore intensità. Pensiamo a alcune cose molto semplici, per esempio il discorso delle promozioni. Allora forse c'era una grande fantasia per cercare di rilanciare queste iniziative commerciali. E soprattutto anche nei termini di comunicazione si cercava di farle conoscere il più possibile. Esatto, si cercava di farle conoscere. Devo dire che in questo momento ormai il consumatore ha imparato a fare un acquisto molto intelligente, quindi sa benissimo cosa comprare, come utilizzare queste promozioni, e bisogna pensare che in questo momento se noi prendiamo un carrello medio di spesa in un supermercato, quasi il 30% della spesa viene fatta ormai in promozione. Le promozioni in questo momento sono promozioni che garantiscono il 30-40% di sconto. Quindi devo dire che da quel punto di vista un po' tutte le insegne si sono date da fare e hanno proseguito. La promozione non è stata l'unica iniziativa. Per esempio c'è stato un grande rilancio delle marche commerciali. Questa è un'altra iniziativa che la maggior parte delle aziende distributive ha messo in campo, e devo dire che il consumatore li accetta molto bene. La marca... molto più volentieri del passato, quando sembrava che in un certo momento addirittura acquistare le private label fosse, come dire, fossero degli acquisti di serie B, invece esatto. Si è scoperto insomma che nessuno mora avvelenato, anzi ci sono dei prodotti di ottima qualità. No, è così, ecco. È così, perché sostanzialmente la marca privata assicura la stessa qualità dei grandi marchi ai quali il consumatore è abituato anche per via della comunicazione, ma ad un prezzo che è anche del 30-40% in certo. Meno. Quindi mi devo informare con lei Crippa solamente perché ho 30 secondi di tempo prima della prima pausa. È già pronto un ascoltatore, ma vorrei sentire anche un'associazione dei consumatori. Col Diretti l'abbiamo dopo, e poi sì, così rifletta anche un attimo sullo scontrino medio e vediamo se anche lì, insomma, il vostro osservatorio dà qualche indicazione interessante. Marco Bulfon, Altro Consumo, coordinatore inchieste per questa grande associazione dei consumatori. E allora, che riflessioni ci induce a fare questa nuova indagine dell'Istat che oggi, come dicevo prima, viene enfatizzata notevolmente da tutti i quotidiani? Una famiglia su tre tira la cinghia, peggio di tutti gli anziani soli. Bulfon. Sì, direi che il quadro non è particolarmente confortante. Tra l'altro, i dati più recenti di cui si dispone relativi alle vendite al dettaglio non fanno pensare che la situazione stia andando migliorando. Quindi sicuramente il quadro è piuttosto preoccupante. Io osserverei anzitutto dal punto di vista della questione del passaggio alla qualità, rinuncia alla qualità, rinuncia ai beni, io ho qualche riserva in questo senso. È molto probabile, secondo me, che ciò che è accaduto è che gli italiani abbiano cambiato il modulo di spesa, per così dire, cioè che mentre in passato probabilmente la spesa era molto più orientata su prodotti di marca, quindi tendenzialmente un pochino più cari, stiano magari più rinunciando al prodotto di marca per spostare la propria spesa su prodotti che non sono di marca. E infatti quello che diceva Crippa adesso, sono prodotti di qualità inferiore, però evidentemente rinunciano a una porzione di spesa che prima facevano forse con più leggerezza. Una seconda annotazione è questa, che ho visto poco ripresa onestamente. Paradossalmente la grande distribuzione sta funzionando ancora molto bene nel centro e nel nord e decisamente meno nel sud, paradossalmente in verità mica tanto. Cioè, se nel centro e nel nord il 70% delle famiglie fa la sua spesa al supermercato, il rapporto è esattamente invertito nel sud, dove la spesa viene nel 70% dei casi effettuata nel negozio tradizionale. Perché? Perché c'è poca grande distribuzione. Da questo punto di vista noi ci aspettiamo che uno stimolo della concorrenza in queste aree dove ancora la grande distribuzione non è sufficientemente sviluppata potrebbe consentire ai consumatori di ottenere dei vantaggi economici indubitabili. Non a caso, quando noi facciamo ogni anno un'indagine sulla grande distribuzione in Italia, ciò che emerge è che i prezzi di grande distribuzione in meridione sono questa volta davvero paradossalmente più alti che nelle città del centro-nord. Anche se poi comunque l'indagine di ieri in realtà fa emergere forti problemi di reddito sono al centro delle preoccupazioni, come sappiamo bene, nel mondo sindacale delle associazioni dei consumatori, non tanto problemi legati alla presenza dei centri commerciali o grandi distribuzioni a nord a sud, ma sono tutti i problemi che poi si mettono insieme. Salvadanaio oggi non poteva non affrontare l'indagine Istat sulla spesa per consumi delle famiglie italiane, anche se, come abbiamo già detto, l'avete già vista su tutti i giornali stamattina, l'indagine che si riferisce al 2009, chissà quante cose sono ulteriormente cambiate in questi primi sei mesi del 2010, perché il problema del lavoro è ancora piuttosto forte in Italia, colpisce soprattutto i giovani, chissà loro come compongono il loro carrello della spesa. Detto questo, alla luce del freno dei consumi certificato da questa indagine, stamattina stiamo un po' interrogandovi sulle vostre nuove abitudini di consumo dettate dalle nuove difficoltà appunto reddituali che hanno colpito molte famiglie. E allora cominciamo a sentire le vostre testimonianze per poi commentarle, ma anche i vostri suggerimenti, se vorrete li prendiamo volentieri all'800 24 00 24, perché poi non è detto che un cambiamento di abitudine sia sempre da dover intendere in termini peggiorativi, perché parliamo di una situazione di difficoltà, magari è un cambiamento anche avvenuto in maniera matura. D'altronde anche i nostri ospiti parlavano proprio di un cambiamento di modulo di spesa, diceva Marco Bulfon di Altro Consumo. Allora, da che andiamo per primi? Da Marco da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, io volevo sottoporvi un po' il mio disorientamento che provo da un po' di tempo a questa parte, quando vado a fare la spesa e parlo di spesa essenzialmente nella grande distribuzione. Da un lato mi ritrovo molto spesso a vedere che su una stessa tipologia di prodotto che io spenda un euro, diciamo così, privilegiando sottomarche o marche di minore importanza, o che io spenda 3 euro privilegiando la marca conosciuta, alla fine spesso e volentieri la qualità non cambia o addirittura si inverte. Posso magari trovare una qualità migliore a un euro e una qualità peggiore spendendone 3 con la marca. Quindi da questo punto di vista mi sento disorientato e spesso e volentieri a quel punto nell'incertezza mi sento portato a spendere chiaramente meno. Dall'altro, spesso e volentieri, io sentivo prima parlare di promozioni, devo dire che a volte ci sono delle promozioni che lasciano allibiti e anziché incentivare all'acquisto, secondo me disincentivano. Per esempio? Io mi ricordo di una promozione in alcuni supermercati qua del Bresciano, ma era stata pubblicizzata anche a livello nazionale, dove un chilogrammo di arance, tarocco se non ricordo male, veniva proposto a 0,50. Io dico che a quel punto l'acquirente non è certo che abbia un senso fare quell'acquisto. Guardi Marco, io la ringrazio per aver concluso la sua riflessione sul tema della frutta, perché mi dà l'opportunità di salutare Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti, che abbiamo raggiunto stamattina. Peraltro so che lo abbiamo anche disturbato da un impegno che aveva. Il mondo Coldiretti oggi è super vivace perché c'è tutta la manifestazione sul Brennero Bazzana. Buongiorno. Buongiorno. Avremo modo poi di sentire il presidente Marini nel corso del giornale radio delle 13. Che cosa ne pensa della faccenda delle arance tarocca 50 centesimi, come diceva Marco? Insomma, se costano troppo e non ci sta bene, se costano troppo poco e abbiamo dei dubbi anche su quello. Tempi duri, insomma, per voi, ma questo sappiamo già. Noi crediamo che il discorso della scontistica, penso anche le catene della grande distribuzione, sia un discorso molto delicato, è che se il consumatore perde la percezione anche di quello che è il valore del prodotto e del giusto prezzo, è chiaro che poi diventa difficile riportare quelle arance ad un prezzo che poi possa essere remunerativo per tutta la filiera. Qui purtroppo siamo in un paese in cui ormai si ragiona con la logica dei saldi, ovvero sia pago per 10 mesi all'anno un prezzo per un prodotto qualunque esso sia, che è fuori da ogni considerazione, poi ho i 2 mesi di saldi o la settimana dei saldi nell'agroalimentare o il giorno del saldo nell'agroalimentare e quel giorno c'è un prezzo che è completamente differente. Noi crediamo, e lo stiamo portando avanti questo ragionamento con la nostra idea di una filiera agricola tutta italiana, che ci debba essere una migliore ripartizione di quelle che sono le fette della torta tra i soggetti della filiera, in modo tale da potersi proporre al consumatore con un prezzo adeguato, certo, perché altrimenti non se ne viene assolutamente fuori. Io tra l'altro, dottor Bazzana, avevo già detto all'inizio della trasmissione che non sarei voluta ritornare questa mattina nella polemica che anima il dibattito economico da tanti anni, quello tra la distribuzione e la Coldiretti. Il tema della scontistica però sul banco ovviamente del supermercato è un tema interessante, perché poi impatta direttamente sui consumatori. Allora io alla grande distribuzione però devo far dire la sua: 50 centesimi per un chilo di arance tarocco significa che comunque allora voi i prezzi potete ulteriormente abbatterli, o comunque non è assolutamente rappresentativo un prezzo per un genere alimentare come questo? Addirittura siamo al punto che disorienta il consumatore. Crippa. Bazzana, ho girato la domanda a Crippa di Federdistribuzione, poi la faccio reintervenire, mi scusi un attimo. Ma di quello che la grande distribuzione deve cercare di fare sulle arance, ma su tutti i prodotti, è quello di offrire la massima possibilità di scelta al consumatore. Questo è il nostro obiettivo. Anche perché nel momento in cui siamo in situazione di difficoltà da parte delle famiglie, è chiaro che ampliare lo spettro di opportunità d'acquisto con prezzi che possono andare dai prodotti di nicchia più ricercati fino a quelli effettivamente a prezzo contenuto per le tasche più deboli, diciamo, delle nostre famiglie, per noi è un elemento fondamentale. Quindi noi siamo continuamente alla ricerca di questa opportunità per i nostri consumatori, e credo che questo sia quello che il cliente, il consumatore, il cittadino cerca nella grande distribuzione. Quindi è chiaro che ci sono dei momenti nei quali noi cerchiamo di offrire questa massima convenienza, però come si diceva prima, come diceva anche il signore della Coldiretti, il prezzo delle arance, come degli altri prodotti, per fortuna non è sempre 0,50, nel senso che nella maggior parte dei casi si cerca di fare un prezzo che sia il più conveniente possibile, perché questo è un obiettivo che noi perseguiamo sempre, ma sia naturalmente in grado di sostenere l'intera filiera e remunerarla adeguatamente, senza che però insomma si arrivi poi al passaggio finale, che è quello che poi fa sempre discutere. Ma mi chiedo, per far durare una promozione magari un lungo periodo, adesso non so quanto fosse durata questa di un chilo di arance tarocca 50 centesimi, ma come deve trattare anche la distribuzione? Per curiosità, come si forma un prezzo così basso? prezzo così basso di solito viene concordato con le aziende di produzione, nel senso che ma se ci ne sono devono disfare piani... in maniera enorme, evidentemente, di queste arance, ce ne sarà una sovrapproduzione della quale il produttore non sa che cosa fare, perché per arrivare a questo punto. Beh, certo, se parliamo dei prodotti più freschi, questa è una delle componenti. Cioè, nel momento in cui c'è una sovrapproduzione, è chiaro che il prezzo scende, quindi si può offrire un'opportunità al consumatore in più. Però in generale il discorso delle promozioni è un discorso che viene concordato tra gli operatori della filiera, proprio perché si cerca di attivare questa leva per tutelare il potere d'acquisto del consumatore. Quindi nell'arco di un rapporto consolidato che c'è fra la distribuzione e il produttore, ci sono dei momenti nell'arco dell'anno nel quale questi prodotti vengono offerti in condizioni promozionate. Quindi è tutta una leva commerciale che viene gestita. È il mercato. No, mi stupiva comunque molto la perplessità dell'ascoltatore che dice addirittura, insomma, su questi sconti. Adesso io voglio dire, siamo anche in grado di rimanere perplessi di fronte ad uno sconto esagerato e magari monitorare la qualità del prodotto. Se comunque è un buon prodotto, voglio dire, per quale motivo non approfittarne in certi momenti. Allora, poi infilerò anche Buffon di nuovo in questa parte del dibattito. Prima della nostra nuova pausa, un altro ascoltatore che è Massimo dalla provincia di Cuneo, perché magari ci fa ritornare sul tema della rimodulazione della spesa. Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Sì, io infatti volevo dire che non è che si spende di meno, si spreca di meno. Perché io lavoro nel settore alimentare. La gente dei miei clienti dice che va a fare la spesa più volte la settimana. Se prima andavano il venerdì, il sabato a fare la spesa grande, ora vanno tutti i giorni a prendere un pochino, il giusto per fare il pasto. E poi se non lo consumano, lo scaldano il giorno dopo. Una cultura che molti avevano perso di riscaldare la roba. E che adesso, insomma, non c'è più neanche tutto questo pudore ad ammettere, Massimo. La ringrazio. Infatti. C'è chi invece sta sostenendo il contrario, che chi prima andava, per esempio, tutte le settimane a fare la spesa, faceva la spesona, adesso la fa una volta ogni due settimane, probabilmente magari si riempie leggermente di più questo carrello, ma non si raddoppia. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Nicola e Maurizio li sentiamo dopo, e qua come al solito sono le donne che si occupano dei prodotti di risparmio nelle famiglie, del carrello della spesa si occupano gli uomini, anche che cose strane che vedo a Salvadanaio. L'ultima parte di Salvadanaio dedicato questa mattina al carrello della spesa delle famiglie italiane. Naturalmente siamo stati un po' tirati per la giacchetta nell'affrontare questo argomento, perché abbiamo voluto approfondire un po' quanto ha detto l'Istat ieri in questo rapporto sulla spesa per consumi delle famiglie italiane. Con noi stamattina Stefano Crippa di Feder Distribuzione, Marco Buffon di Altro Consumo, Lorenzo Bazzana, Coldiretti. Abbiamo sentito la riflessione del nostro ascoltatore Massimo, che dice non è che si consumi di più o di meno, non è che sia variata molto, si spreca meno nelle famiglie, si riscalda anche di più il piatto del giorno prima, e quindi anche questo un tema interessante. Buffon, Altro Consumo, ha sentito anche il tema dello sconto delle arance tarocco, insomma quello che abbiamo detto fino ad ora, che riflessione ha portato all'Associazione dei Consumatori? Ma condivido molto l'osservazione sugli sprechi, e devo dire, per quanto riguarda l'arance tarocco, noi solitamente siamo ben contenti del fatto di trovare sul mercato delle opportunità di questo tipo. Naturalmente è ovvio che non è utile per il consumatore il fatto che ad un certo punto una filiera si sfaldi e si creino delle anomalie sul mercato, però finché siamo nell'ambito delle normali regole sul mercato, promozioni di questo genere ben vengano. Invece sulla questione del rapporto qualità-prezzo che citava il primo ascoltatore, non nascondo un pizzico di soddisfazione per il suo disorientamento, se posso permettermi, nel senso che forse questo è proprio il momento in cui molte famiglie italiane imparano a non associare al prezzo il concetto di qualità. Il prezzo è anche uno strumento di marketing, cioè mediante il quale si costruisce un'immagine del prodotto. E non sempre un prodotto, per il semplice fatto che costa caro, è un prodotto di qualità. Devo dire che da questo punto di vista Altro Consumo ha un'esperienza decennale, perché proprio di questo si occupa. Ah, fate tante di quelle prove sul campo, io già la vedo Buffon che frequenta i supermercati, fa tutti gli assaggi dei prodotti di gastronomia, dei vari centri commerciali, Un lavoro divertente qualche volta, non c'è solo mica Anna Vizzari che va in banca, ecco, lei invece va. Comparativi, quindi prendiamo i prodotti, li acquistiamo sul mercato e facciamo analisi di laboratorio, quindi Allora, insomma, sì, noi cerchiamo peraltro, come sempre, di sdrammatizzare anche un po' i toni con i quali affrontiamo gli argomenti, ma certo che, ribadisco, io un po' questo rapporto di ieri mi ha colpito su tante cose, soprattutto sul tema degli anziani che hanno veramente difficoltà qualche volta a fare un carrello della spesa soddisfacente. Questo è un tema di una tristezza per me enorme e speriamo di poterlo combattere dando una mano a questi redditi che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. E allora sentirei, prima di tornare a Lorenzo Bazzana di Coldiretti, un altro ascoltatore che fa direttamente la spesa dei contadini. Nicola, buongiorno da Verona. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto ringrazio la crisi perché mi ha fatto capire come spendere e cosa spendere. Erano spreconi prima, Nicola? Cosa faceva al supermercato? Sì. Ma prima nel supermercato ti andavi dentro la gastronomia, ti prendevi Rosbis affatto, ti prendevi questo, ti prendevi quell'altro, roba che andavi buttata via, non guardavi cosa costava la verdura, la prendevi quella già insacchettata, lavata, questo quell'altro. Adesso guardandosi un po' in giro, andando direttamente dal contadino, io abito a Verona, a Zevio, quelli che vendono le mele, prendendo le mele a Zevio, prendendo gli asparagi giù in Verona, prendendo la verdura di stagione, io risparmio un 40% netto sulla spesa. Un 40% è tanto. Sì, sicuramente. Io carrello, io invece faccio il contrario, faccio la spesa per un mese per la roba non deferibile, faccio pasta, pane, così vado dentro, mi prendo quello che mi serve per un mese e vengo fuori, senza guardare in giro la maionese, questo, quell'altro, le stupidaggine. Anche il stesso discorso per la colazione la mattina. Invece di prendere un latte fresco, prendo un latte a lunga conservazione, certo, o parzialmente scremato. Ma certo, Nicola, a meno che non si abbiano, insomma, dei bambini a casa o delle persone che magari hanno determinate esigenze per questioni di salute, si possono un po' riorganizzare le nostre abitudini se abbiamo un'esigenza di risparmio. Lorenzo Bazzana di Coldiretti, insomma, voi avete anche organizzato in questi ultimi due anni, da più tempo per la verità, ma sicuramente la loro presenza sul territorio si è molto enfatizzata negli ultimi tempi, i vostri mercati del contadino, la vostra iniziativa Campagna Amica. Mi chiedo, per esempio, prendendo a spunto la riflessione di Nicola da Verona, chi vi viene a cercare lo fa per un'esigenza di risparmio e quindi si porta a casa delle belle scorte di frutta e verdura per tutta la settimana, per 15 giorni, oppure insomma è un mondo che è stato riscoperto a causa della crisi o anche per altre ragioni? Ma gli elementi sono almeno tre. Uno è quello che diceva lei, appunto, che ci può essere questa convenienza economica. Un altro aspetto è il fatto che comunque si trovano prodotti al giusto grado di maturazione, freschi, con una soddisfazione organolettica che molto spesso nelle catene della grande distribuzione abbiamo perso, perché ci sono logiche diverse di un prodotto più stabilizzato, di un prodotto che possa durare più a lungo e magari staccato a cerbo, magari raccolto da poter mettere in cestini che possono rimanere più a lungo sullo scaffale. La terza logica è che c'è chi ci mette la faccia, ovvero sia il fatto di creare un rapporto con il coltivatore, con il produttore, con colui che quotidianamente, con la sua attenzione e con la sua passione, ha portato questi prodotti a maturazione, con cui appunto si può scambiare un rapporto anche a livello umano, che ormai molto spesso si è perso. È vero. Allora, intanto io, siccome ero partita con la trasmissione così, cercando di invogliare gli ascoltatori a raccontarci le proprie ricette di risparmio, visto che peraltro parliamo anche di prodotti alimentari, sto cercando di leggerne qualcuno. Ci sono degli ascoltatori che appunto continuano a raccontarci di come frequentino in maniera molto più intensa rispetto al passato rivenditori diretti di ortaggi, di frutta e verdura. Altri intervengono sul tema delle offerte che non sempre servono a premiare i consumi ma ad attirarli per vendere altri prodotti a prezzo pieno, e vabbè, le logiche commerciali ci sono anche per questo. Crippa non è d'accordo, adesso lo lascio concludere. Ci abbiamo pochissimo tempo, voglio far fare un intervento telegrafico a Mauro da Roma e a Maurizio da Verona per poi concludere con i nostri ospiti. Mauro, rapidissimo, cosa fa per combattere la crisi? Mauro non ci sente, voleva raccontarci che ha fatto un sacco di tessere fedeltà presso tutti quanti i supermercati, questo sarebbe stato divertente. Maurizio da Verona, la lezione ai suoi bambini per comprare al prezzo giusto. Eccolo qua, sì, buongiorno. Buongiorno a voi. Le opportunità che sono adesso con le offerte sono tantissime, bisogna solo provarle. I miei bambini sono diventati dei specialisti di marketing, perché acquistano pasta a qualsiasi prezzo e poi provano e danno giudizio. Facciamo, diciamo, l'altro consumo in casa. Il numero dell'altro consumo in casa di questa settimana, di questo mese, mi pare c'è il tonno. La bambina più piccola di 8 anni ha detto: guarda, noi abbiamo fatto giusto come altro consumo, avevamo scelto il tonno più buono e il prezzo più basso. Ah, benissimo, insomma li utilizza un po' come cavie i suoi bambini, Maurizio. Però loro sanno quale frutta mangiare, in che stagione mangiare. Prima benissimo. Un mio collega di Verona diceva l'asparago di Verona, la mela di Vesio, la ciliegia di Vicenza. I suoi bambini conoscono bene tutte le località. Esattamente, il problema è che voi dicevate prima per gli anziani non hanno la possibilità di muoversi di così facilmente. Bravissimo, e Maurizio. E loro infatti dicono: portiamola a casa per il nonno, per la nonna, che loro non riescono a andarli a comprare così buoni. Maurizio, un bel complimento a lei, alla sua famiglia, a sua moglie, naturalmente, che l'aiuterà ad educare in maniera così interessante i suoi figli. Sì, è vero, gli anziani non possono neanche essere raggiunti qualche volta, devono pure spostarsi, quindi mazziati insieme all'altro termine ci vorrebbe. Non ho più tempo, 30 secondi. Crippa, assegno a lei la conclusione, visto che comunque alla fine della fiera veniamo tutti quanti al supermercato, ci aiuta ad affrontare questo momento di difficoltà. Come dobbiamo guardarci bene intorno per accaparrarci le offerte senza però cadere nel dubbio, come è successo all'ascoltatore che abbiamo sentito, sulla validità anche degli sconti che troviamo? Guardate, io credo che effettivamente andare in un supermercato, andare nella grande distribuzione in questo momento possa rappresentare la scelta per fare un acquisto intelligente. Noi abbiamo visto che in questa crisi, come peraltro è emerso anche dalle telefonate che abbiamo ricevuto oggi, abbiamo prodotto un grande cambiamento nel consumatore, che è diventato molto più attento nel fare la spesa, molto più razionale, decide quali sono effettivamente i propri bisogni e decide come spendere i soldi che ha a disposizione. Questo è un atteggiamento ormai diffuso e io credo che sia un fatto estremamente positivo, perché elimina quello che in passato era quello che qualche sociologo chiama la bulimia dei consumi, dà un consumo più razionale però cercando appunto di seguire questa razionalità nel consumo. E insomma, io credo che italiani, in un supermercato si possa effettivamente trovare tutto quello che si cerca. Non mi faccio arrabbiare col Diretti un'altra volta, naturalmente si possono frequentare anche i mercati del contadino e poi soprattutto speriamo su questa polemica fra qualche tempo di non doverne più parlare. Insomma, gli italiani stringono la cinghia, ma perché hanno imparato anche a comportarsi in maniera più consapevole al supermercato e in tutti gli altri luoghi dove si fa la spesa per imbandire la propria tavola. Grazie a Stefano Crippa, a Marco Bulfon, a Lorenzo Bazzana. Noi ritorneremo presto su questo argomento perché ci piace molto e vedo che anche vi stimola tantissimo, ci fa piacere. Intanto Salvadanaio torna domani ancora sui prodotti di risparmio. Gli italiani fanno incetta di obbligazioni bancarie, ma non solo, di obbligazioni anche societarie. Per quale motivo? Lo ha detto la Consob qualche tempo fa. Buona giornata a tutti.